Boh, allora, buonasera. Un sacco di gente che conosco, tre o quattro che non conosco. Speriamo di entusiasmarli. No, non mi piace. No, ditemi se sentite là a fondo, sentite se parlo così. Perché, boh, ciò. Ma non mi piace parlare con cose, poi devo leggere. Comunque, se non sentite, ditemelo che. Prendo cosa. Vorrei cominciare con delle riflessioni che si muovono ancora all'interno del paradigma economico vigente e purtroppo ancora vincente. In Svizzera pare che c'è il 4% più o meno un po' scarso di disoccupazione, no? Ora, se questa società desse una certa importanza a un concetto che si chiama solidarietà, questa cifra del 4% di disoccupati non sarebbe assolutamente un problema. Perché 96 salariati potrebbero benissimo farsi carico di 4 persone che di salario non ce n'hanno. E in effetti è anche quello che succede, perché le allocazioni di disoccupazione in pratica sono una specie di salario differito. Però resta il fatto che si dovrebbero dare soldi a dei disoccupati, no? Un'altra possibilità per non pagarli i disoccupati, ma per occuparli, anche qui implicando la solidarietà, sarebbe che quel 96% di gente che lavora grosso modo 40 ore alla settimana diminuisse il proprio lavoro di un'ora e mezza e statisticamente si recupererebbe tempo di lavoro e salario abbastanza per far lavorare quel 4% di disoccupati. Naturalmente questo secondo sistema non rientra negli schemi normali perché al capitale non interessa assolutamente eliminare la disoccupazione, non è una preoccupazione sua. E invece l'altro sistema, quello che più o meno è quello vigente, di pagare i disoccupati, quello cozza purtroppo con la mentalità ancora molto diffusa della persona che per un motivo o per l'altro si trova disoccupata e che da una parte la società glielo fa sentire, no? La fa sentire quasi come un parassita e lui stesso per influsso di un lavaggio del cervello che è cominciato sin da piccolo si sente lui stesso una specie di fallito. Ce n'è per fortuna. Ci sono dei disoccupati che non hanno questi problemi morali, ma moltissimi purtroppo ce li hanno. In più sono costretti a una cosa abbastanza demoralizzante o anche moralmente non bella, la costrizione di raccogliere ogni mese tot numero di firme per avere il diritto a questa maledetta disoccupazione e poi il fatto che la disoccupazione sia limitata nel tempo, no? Uno a un certo momento viene buttato fuori e poi deve ricorrere come si dice, all'assistenza, eccetera. Ora, sia in un modo che nell'altro, in Svizzera la disoccupazione, diciamo, non pone un grosso problema. Se noi allarghiamo invece la visione a livello planetario vedremo che la cosa è molto più spessa, nel senso che secondo i grandi organismi economici mondiali, pare che 4 miliardi di persone al mondo vivono con un reddito inferiore ai 2 dollari al giorno. Ora sfido chiunque a pensare che sia possibile dare una media di un salario di 5.000 franchi al mese, che è più o meno la media dei salari svizzeri, a tutta questa gente. Significherebbe aumentare il loro reddito di 60-70 volte in un colpo solo. È impossibile. è irrealizzabile. E non è tutto perché quei 3 miliardi invece di persone che il lavoro ce l'hanno, di questi 3 miliardi, 1,5 miliardi anch'esso, pur lavorando, pur avendo un salario, deve vivere, deve accontentarsi con meno di 2 dollari al giorno, per cui la massa per la quale si dovrebbe creare lavoro perché abbiano un salario, arriva a più di 5 miliardi di persone. Mettiamo che per un miracolo questo si realizzi, cosa significherebbe questo? Significherebbe la fine delle materie prime in poco tempo, significherebbe il disastro ambientale a livello planetario e significherebbe in poco tempo la fine della possibilità di sopravvivere per la specie umana. Dunque vediamo che il sistema vigente, attuale, il sistema, no, di soddisfare i nostri bisogni materiali attraverso un'occupazione qualsiasi finalizzata ad ottenere un salario che poi da spendere per coprire, per soddisfare questi bisogni, è un sistema che non è proponibile a livello globale. È una cosa che non è proponibile, che non può valere per tutti, è una cosa iniqua. È una cosa iniqua, va demolita. Questo è più o meno il succo di tutto il mio. La mia tesi o la mia profonda convinzione anche che non si può andare avanti in questo modo, si devono trovare altre strade. Detto questo, voglio presentare il mio libro, cerco di farlo cronologicamente avanzando da un capitolo all'altro, dicendovi in poche parole cosa contengono questi capitoli. Il lavoro c'è. È impacchettato in due storielle divertenti all'inizio e alla fine per tirare su un po' il morale, per far vedere che insomma non è che con questo testo volevo fare andare tutti al nero o al suicidio, no? Anzi, alcuni amici che l'hanno letto mi hanno detto no, all'inizio avevo paura che dovessi smettere, che dovessi buttarlo via, poi pian piano ho poi visto che non è così terribile. La storiella iniziale è la storiella della scoperta del paradiso terrestre, un fatto veramente accaduto, non vi dico esattamente che cosa, così vi invoglio di più a leggere il libro. Però una quasi tragedia che si è poi trasformata in una cosa bellissima che è durata purtroppo solo un anno, ma che ha permesso a un gruppo di persone che erano destinate a colonizzare i nuovi territori inglesi nell'America del Nord e a condurre una vita dura e difficile, per un annetto li ha sbattuti su di un'isola nella quale hanno potuto vivere dei frutti, degli alberi, dei pesci del mare senza far niente e hanno veramente scoperto che il paradiso terrestre può esistere anche sulla Terra. Invece la storiella che impacchetta il libro alla fine è una specie di parabola che descrive un modo di vivere, un modo di vedere il fatto di essere al mondo, il perché siamo al mondo, in maniera totalmente diversa da quella che ci viene proposta e imposta dal sistema, e indica anche in che direzione, secondo me, dovremmo andare per eventualmente uscire dal vicolo cieco nel quale ci troviamo tutti. Il primo capitolo del libro vero e proprio comincia con un excursus storico rapido sul significato del termine lavoro nel corso della storia. Dai greci ai romani alla civiltà del Medioevo e fino su, ancora ben dentro all'età moderna, riassumo, il lavoro ha sempre avuto un connotato negativo. Lavoravano gli schiavi, lavoravano le donne, lavoravano i prigionieri di guerra, lavoravano i servi della gleba, lavorava chi era così povero, così indigente da non avere nemmeno pezzetto di terra coltivando la quale poteva soddisfare i propri bisogni, quelli della sua famiglia, oppure chi non era nemmeno così miserabile da poter godere del diritto di elemosinare. Voi sapete che durante tutto il Medioevo l'elemosina era un diritto e i ricchi, cioè, in un momento dovevano anche, si facevano, avevano questo obbligo morale quasi di dare, di mantenere tutta una cerchia di storpi, di ammalati, di gente che non aveva assolutamente un'altra possibilità di guadagnarsi da vivere. Poi, a un certo momento nel corso del Medioevo, prima a livello sovrastrutturale, è iniziato un processo di mutamento, di lento mutamento di questa accezione negativa del lavoro. Forse per un bisogno della nascente economia, dei traffici, dei commerci, dei mercati, della nascita dei grossi, degli stati più complicati da organizzare, e anche forse per merito della concezione cristiana che aveva decretato l'uguaglianza naturale e spirituale di tutti gli individui, mentre prima c'era degli individui che erano considerati, per esempio gli schiavi, erano considerati quasi dei subumani. Fatto sta che pian piano si è rovesciato il valore da dare al lavoro, no? E questo naturalmente non è andato così liscio. Ci sono volute schiere di filosofi, di demagoghi, di imbonitori, di filantropi che hanno lavorato, lavorato, lavorato sul cervello della gente per portarli a questo. Secondo degli storici, il colpo di grazia proprio per far cambiare la valenza del rapporto della gente col lavoro è stata, dopo la riforma, la diffusione in tutta Europa dell'etica protestante. Sentiamo cosa dice per esempio Lutero. L'unico mezzo per vivere così da piacere a Dio non consiste nel superare la morale della vita secolare attraverso l'ascesi monastica, ma esclusivamente nel compiere nel mondo i doveri corrispondenti al luogo che l'esistenza ha assegnato all'individuo nella società. Doveri che così diventano la sua vocazione. Bello, no? Altri imbonitori nomi famosi come Fichte, come Malthus, come Carlyle, avevano anche loro qualcosa da dire. Sentiamone uno che dice: ognuno deve poter vivere del proprio lavoro. Questo è il principio, da ciò decorre che il fatto di poter vivere dipende dal lavoro. Ma se non c'è questa condizione, non c'è diritto di vivere. Capito? È chiaro, signore. Un altro, Malthus, dice: si è rivelato per le inevitabili leggi della natura umana che alcuni individui finiranno in miseria. Questi sono quei miserabili che nella grande lotteria della vita non hanno estratto un biglietto vincente. Facile. Con simili statement, con simili dichiarazioni, si giustificava il fatto che, malgrado il cristianesimo avesse decretato l'uguaglianza naturale della gente, socialmente continuava invece a esistere una grossa disparità tra i ceti alti e tra invece la gente comune. Questo per questa carrellata storica, no? E prima avevo detto che invece la gente, più o meno l'opinione diffusa sul lavoro era negativa, no? E questo si esprime anche nei termini che nelle varie lingue europee definiscono lavoro. forse tanti di voi sanno che il travail francese, trabajo, trabalho, spagnolo e portoghese, vengono dal latino trepalium, che era uno strumento di tortura, oppure il giogo che si metteva sulla spalla del bue per tirare l'aratro. Dunque, vedete, laborare in latino significava affaticarsi, affannarsi, no? E il tedesco Arbeit era il termine che si usava per il lavoro obbligatorio cui erano sottoposti gli orfani, quelli che non avevano genitori. Vedete, queste accezioni negative si ripercuotono nella lingua. Invece, al contrario, poi anche in epoca moderna, la lingua aiuta la mistificazione dell'etica del lavoro che nobilita, del lavoro che rende liberi, eccetera, eccetera, no? Prendiamo il termine correntissimo di datore di lavoro, che una volta si chiamava padrone, adesso lo chiama datore di lavoro. Allora è un filantropo il datore di lavoro, perché dà il lavoro, e qui bisognerebbe anche chiedersi da dove uno prende il privilegio di avere del lavoro da dare. Vabbè, lasciamo perdere. Dà il lavoro e poi ti dà anche il salario, no? Veramente un grande benefattore. I tedeschi, la lingua tedesca, che è una lingua precisa, ha coniato il pendant di questo datore di lavoro, il prenditore di lavoro, Arbeitnehmer, no? Cioè quello che prende il lavoro, che è un vero scroccone, perché prende il lavoro uno e in più prende anche il salario. Allora uno dà due cose e l'altro prende due cose. Vedete come addirittura la lingua aiuta a pervertire il vero senso delle cose. Passo poi a descrivere quella che secondo me è l'essenza del lavoro. E qui devo fare una precisione. Nel mio testo, quando parlo di lavoro, intendo il lavoro salariato. Quando parlo di attività, intendo invece quello che le società umane hanno fatto per il 99% del periodo in cui l'umanità è esistita, cioè l'attività in proprio volta il più direttamente possibile a produrre gli strumenti di cui si ha bisogno e gli alimenti di cui si ha bisogno. Mentre il lavoro è il lavoro salariato, il lavoro eterodiretto, il lavoro che decide qualcun altro che io faccio, io va bene fare questo, quello, quello, perché è l'unica possibilità che ho per ottenere un salario. E dal punto di vista, io classifico questo tipo di lavoro, lavoro salariato, in maniera negativa sotto quattro punti, di vista. Dal punto di vista economico, lavoro e sfruttamento, perché sappiamo benissimo che i padroni ci fanno lavorare perché devono trarre il loro profitto dal nostro lavoro. Dal punto di vista sociale, il lavoro è alienazione. La famosa alienazione da se stessi, dal prodotto e anche dalla società. Dal punto di vista politico, lavoro cos'è? È controllo sociale. Si costringe la gente a lavorare perché poi fonde in testa e accetta tutto quello che le si propone. Infine, dal punto di vista ecologico, il lavoro cosa significa? Significa dissesto ambientale. E ne siamo tutti coscienti più o meno, no? Fatta questa distinzione tra lavoro e attività, si capisce che il lavoro salariato diventa un obbligo, una costrizione, anche perché se sottratta alla gente di campagna, poco a poco, e questo è successo specialmente in Inghilterra, che è la patria del nascente capitalismo, la rivoluzione industriale. Il capitalismo industriale è nato e si è sviluppato in Inghilterra, no? Cosa era successo in Inghilterra? Che attraverso le recinzioni delle terre comuni, dove prima bene o male un contadino, la gente normale, perché le città erano spopolate, erano piccole, la maggior parte della gente viveva fino al 700-800, viveva nelle campagne. La gente è stata costretta a lasciare questi luoghi in cui, bene o male, poteva costruirsi una casetta, poteva pascolare i propri due o tre animali e poteva coltivare un orticello. E venne spinta, queste terre furono recintate proprio fisicamente, espropriate anche fisicamente, e non solo questo, ma tante terre che prima erano agricole, che producevano direttamente dei beni, degli alimenti, sono state trasformate in pascoli per il bestiame. La pecora è quella che ha fatto, assieme allo sfruttamento delle colonie, delle materie prime, ha fatto la base, ha creato la base finanziaria poi per sviluppare il capitalismo. Dunque, queste masse scacciate dalla terra finivano negli slum cittadini e cadevano da una povertà più o meno decorosa nella miseria. Per me esiste una grossa distinzione tra povertà e miseria. La povertà può abbinarsi, anche secondo me dovrebbe, no? Abbinarsi a una vita decente, a una vita proponibile, mentre la miseria non è solo una questione economica. I sottoproletari che finivano in questi slum delle città, delle nuove città industriali, erano decaduti anche dal punto di vista culturale. Non avevano più il loro ambiente, non avevano più i loro rapporti familiari e di clan o di nucleo o di comunità rurale, e vivevano in condizioni infraumane anche al di fuori del posto di lavoro, per non parlare poi delle condizioni di lavoro. Una cosa che non si deve mai scordare è che la nascita del capitalismo e della società di mercato e la sua diffusione su tutto il continente è coincisa con un oggettivo peggioramento della situazione della massa della popolazione. Da un lato, la ricchezza sociale aumentava enormemente grazie alle fabbriche, grazie ai nuovi sistemi produttivi, all'invenzione della macchina a vapore, eccetera, eccetera. E dall'altra parte le condizioni della maggioranza della popolazione peggioravano. Questo era un fenomeno che i filosofi, i sociologi e gli economisti del tempo riconoscevano, ma non riuscivano a spiegarsi. Lo ammettevano che era così, e alla fine hanno scoperto che questo doveva provenire da una legge naturale, che era così, come il tipo, vi ricordate il tipo che dice: ormai c'è gente che nella lotteria della vita estrae il biglietto perdente, no? Questo allude a una specie di calamità naturale contro la quale non si può fare niente. Tant'è vero che in Inghilterra poi, addirittura ancora sotto le monarchie, si erano create delle leggi per aiutare i poveri, naturalmente anche un po' con finalità filantropica e un po' nell'interesse di evitare sollevamenti, tumulti e rivoluzioni. E queste leggi per i poveri, che erano già state create alla fine del Cinquecento, portarono stranamente a un peggioramento della situazione, perché c'erano dei sussidi che servivano per aumentare i salari a un certo livello, che veniva misurato secondo il prezzo del pane nei vari momenti. Allora, cosa succedeva? Che sia nelle città sia nelle campagne, i padroni dei terreni abbassavano il salario, perché tanto c'era la comunità che interveniva e compensava la differenza. E pare che conveniva loro pagare una certa tassa in questo fondo d'aiuto ai poveri, piuttosto che invece pagare salari convenienti direttamente. Cosa è successo? Che questa massa di gente, che, come ho detto prima, era stata espulsa dalle città e viveva in condizioni, ormai era anche culturalmente spossessata, aveva in un certo senso imparato che si lavorava per il salario, no? Non si lavorava più per procurarsi da vivere direttamente, ma per avere il salario. Allora, con questa sicurezza data dallo Stato, la gente, è strano a dirlo, no? Ma la gente lavorava meno bene, e questo ha portato a un grosso problema economico, no? E allora c'era tutta una schiera di economisti puri che dicevano: ma se la legge naturale vuole che ci siano dei poveri, dei miserabili e della gente che sta bene, è inutile che noi come società proponiamo, no? Inventiamo questi sussidi che sono contro natura. È meglio lasciare andare le cose come vanno, che così vedrete che la società si raddrizzerà per un fenomeno di autoregolazione, no? Ancora adesso si continua a dire: lasciate stare i mercati che si autoregolano da soli. Una bella barzelletta. Comunque, hanno fatto tanto scalpore, hanno avuto tanto potere finché nel 1832 o 34 queste leggi d'aiuto ai poveri sono state soppresse. Il lavoro, nel capitolo sull'essenza del lavoro, mi riferisco anche alla durata. La durata del lavoro. Dovete sapere che le prime rivendicazioni per la giornata di 8 ore risalgono al 1860. Adesso, 150 anni dopo, malgrado l'enorme sviluppo come si dice, la produttività del lavoro, siamo ancora qua a lavorare 8 ore il giorno, no? Qualcosa non funziona. E allora c'è la Simone Weil, per esempio, la grande scrittrice francese, che ha sperimentato sulla propria pelle la vita in fabbrica, che fa una riflessione interessante. Essa ci dice: per essere accettata la schiavitù, e si intende la schiavitù del lavoro, deve durare ogni giorno il tempo necessario a cancellare qualcosa nell'uomo. E rincara la dose. In fondo, si sente oggi che il lavoro in quanto tale costituisce la migliore polizia e tiene ciascuno a freno e riesce a impedire validamente il potenziarsi della ragione. Esso logora straordinariamente una grande quantità di energia nervosa. Alla Weil si associa Raoul Van Eygen, qualcuno conoscerà questo autore, un terribile critico della società del lavoro, che ci dice: il lavoro produttivo si situa nel campo delle misure di mantenimento dell'ordine. Il potere fabbrica la dose di fatica necessaria all'assimilazione dei suoi comandamenti televisivi. Così il tempo di lavoro può diminuire in corrispondenza all'aumento dell'effetto del condizionamento. Un altro campione del rifiuto del lavoro non teorico ma pratico, Thoreau, dice: gli uomini, nella maggior parte, per pura ignoranza ed errore, sono così presi dalle false preoccupazioni e dai più superflui e grossolani lavori per la vita che non possono cogliere i frutti più saporiti che questa loro offre. Le fatiche eccessive cui si sottopongono hanno reso le loro dita troppo impacciate e tremanti. In effetti, un uomo che lavori duramente non ha abbastanza tempo per conservare giorno per giorno la propria vera integrità. Non può permettersi di mantenere con gli altri uomini i più nobili rapporti, perché il suo lavoro sarebbe deprezzato sul mercato. Ha tempo solo per essere una macchina. Queste alcune definizioni, alcuni giudizi della entità o dell'essenza del lavoro. Poi naturalmente descrivo anche un po' cosa significa veramente il lavoro. Vi ho già detto prima che all'inizio non mi scappa il termine, all'inizio scusate, dell'economia di mercato, no? Della diffusione del capitalismo su ampia scala, le condizioni di lavoro erano peggiorate. Ma anche dopo, anche negli anni 70 del secolo scorso, quando in Europa sembrava che si fosse raggiunto il pieno impiego, che tutti potevano lavorare, eccetera, eccetera, non bisogna pensare che il lavoro fosse una bagatella. I più anziani di voi forse l'hanno vissuto sulla propria pelle, o hanno avuto amici, o hanno letto dei resoconti di come avveniva, per esempio, cosa significava il lavoro nelle grosse fabbriche tedesche, la locomotiva economica d'Europa, no? C'è stato Günther Wallraff, un attivista e un bravo giornalista e scrittore tedesco, che si è trasformato lui stesso in turco, proprio trasformato fisicamente, anche per andare a lavorare in fabbrica assieme a quelli che a quei tempi erano gli stranieri che in Germania dovevano compiere i lavori più infami, più brutti, più pericolosi. E è arrivato al punto che quasi quasi ci rimetteva la salute, finché i medici e quelli che lo conoscevano, sapevano la sua vera identità, l'hanno consigliato di smettere perché altrimenti ci lasciava la pelle. Salto un po' di qua e di là nelle descrizioni, vi parlo di questo, di questa situazione germanica che era l'avanguardia del mondo del lavoro. Parlo anche dei giapponesi che lavorano alla Toyota. E cito di cosa significa il lavoro alla catena, dove uno deve fare non so quanti movimenti al minuto, sempre gli stessi, per 8 ore, finché diventi quasi cretino. E questo non nel certo nell'Ottocento, ma 30 anni fa. Oppure delle fabbriche dei calzaturifici italiani, localizzati nei paesini, dove alle donne si davano le suole, si davano la colla, si davano il cuoio per confezionare delle scarpe, lavoravano in condizioni. Lì naturalmente uno può dire, ma è colpa loro, però era il sistema che li obbligava a lavorare. Per esempio, lavoravano nel posto dove vivevano, per cui vicino alla colla nociva c'era il pasto per i bambini, no? Situazioni così, per non parlare della situazione del lavoro nel settore tessile in India, dove la gente in più era sottoposta a condizioni di quasi schiavitù. Oppure mi si potrebbe dire, ma questi sono esempi un po' strani, no? Allora prendiamo un settore molto all'avanguardia, il settore dei programmatori di computer, no? Lavoro in rete, e anche questi erano sottoposti a, e lo sono probabilmente ancora adesso, a condizioni di lavoro psichicamente stressanti, forse non più fisicamente come secolo fa, ma psichicamente così stressanti, tanto che un ricercatore che aveva fatto un'inchiesta in Inghilterra fra questa gente, aveva anche aperto un blog sul quale la gente poteva confidarsi, sfogarsi, ha poi ha riassunto queste sue esperienze in un libro che l'ha chiamato Net Slavers, gli schiavi della rete. E già questo accostamento rete, si direbbe non plus ultra della tecnologia, però abbinata alla parola schiavo. Non potevo, naturalmente, in un libro che si oppone al lavoro, parlare delle forme di evitare di parlare delle forme di opposizione, che malgrado il lavaggio del cervello, malgrado le costrizioni sociali ed economici, la gente ha sempre tentato di opporsi a questa forma strana di guadagnarsi il pane. E vi leggo alcuni statement, alcuni luoghi comuni che in parte conoscerete anche voi, che esprimono anche il desiderio, no, di una situazione diversa, un po' il desiderio sotto sotto del paradiso terrestre, del paese di cuccagna, comunque delle frasi che esaltano il contrario del lavoro, l'ozio e il non far niente, no? C'è uno scrittore inglese che si chiama Jerome, che ha scritto Tre uomini in barca, per esempio, l'ho tradotto anche in italiano, che dice: il lavoro mi piace, mi affascina, potrei starmene seduto per ore a guardarlo. Socrate, il famoso filosofo greco, diceva: l'ozio è il fratello della libertà. Dostoevsky, scrittore russo: la pigrizia è la seducente amante della fantasia. Oppure degli slogan che non hanno un autore: se vedi chi riposa, aiutalo. Non fare oggi quel che puoi fare domani. Di troppo riposo non è mai morto nessuno. Quando ti viene voglia di lavorare, siediti, aspetta che ti passi. Un altro dice: se il lavoro è salute, evviva la malattia. E un altro più terra a terra dice: si perde la vita per guadagnarsi da vivere. Un po' un testo un po' più lungo del cantautore francese Boris Vian, autore di canzoni bellissime. Il lavoro è probabilmente la cosa più bassa e ignobile che esista. Non è possibile guardare qualcuno che lavora senza maledire ciò che l'ha portato a farlo, quando potrebbe nuotare, dormire nell'erba, oppure leggere o fare all'amore. Il lavoro può assumere un sacco di forme, è innanzitutto ciò che siamo costretti a fare tutti i giorni senza averne voglia. No, non ci sono ancora. Ma provo con degli esempi. Le 8 ore al giorno del contabile in ufficio, le 10 ore al giorno che la comparsa gesticola negli studi, i rivoli di sudore sui peli del cariolante a torso nudo. Ciò che non possiamo smettere di fare quando abbiamo voglia di smettere di farlo. Magari qualcuno li trova esagerati questi statement, ma per me contengono una grande verità. Le forme classiche di opporsi al lavoro cos'erano? Il sabotaggio, il boicottaggio, lo sciopero, l'assenteismo, lo sfruttare la disoccupazione senza avere rimorsi, il parassitismo. Questo mi piace già molto meno, perché di solito i parassiti non è che sfruttano un riccone o un capitalista, ma sfruttano della gente come loro, vivono a spese della famiglia, degli amici, eccetera, eccetera, no? E cosa interessante che si dovrebbe dire: peccato qui non ci sarà qualche sindacalista moderno, non penso, non so. Il tema, la lotta contro il lavoro, la prima che ho annunciato, il boicottaggio e il sabotaggio, erano stati fatti propri ufficialmente dai sindacati francesi alla fine dell'Ottocento, in un'assemblea delle varie confederazioni sindacali svoltasi a Tolosa nel 1897, era stata formata una commissione per il boicottaggio e il sabotaggio, si chiamava proprio così, che pubblicava degli opuscoletti da distribuire per insegnare ai lavoratori dei vari settori qual era il modo migliore per far inceppare la macchina produttiva. Naturalmente, per esempio, a chi lavorava a Cottimo spiegavano che non si doveva inceppare la macchina così direttamente, perché naturalmente, se no, se la macchina si inceppava, tu non potevi produrre i pezzi in base ai quali venivi pagati. Si consigliavano invece altri interventi, per esempio di deteriorare la merce, che così veniva rifiutata dal cliente, eccetera, eccetera, no? Per esempio, a Ginevra, per parlare del nostro paese, perché non si deve pensare che, anche se in Svizzera nel 1937 sindacati e patronato hanno votato un patto comune, no, per mantenere la pace nel lavoro, non si deve pensare che prima i lavoratori svizzeri fossero stati tutti bravi, bravi e accucciati senza fare niente. A Ginevra negli anni 20 e 30 era stata fondata la LAP, che si chiamava Ligue d'Action du Bâtiment, Lega d'Azione dell'Edilizia. era di tendenza anarchica naturalmente, no? E come scrive un suo militante, la LAP badava a boicottare i boicottatori, cioè i padroni che non rispettavano il contratto collettivo di lavoro, assumevano cromiri, sottopagavano gli operai, li facevano lavorare il sabato, eccetera, eccetera. Dopo alcuni avvertimenti inascoltati, arrivava la lezione, che poteva consistere nella rottura delle fresatrici di una falegnameria, dell'incendio di un laboratorio, nella distruzione di un muro appena eretto, nel rovesciamento di autocarri, eccetera, eccetera. E va sottolineato che queste azioni avvenivano più o meno alla luce del sole e avevano l'appoggio tacito, certe volte anche fattivo, della gente che abitava nei dintorni. Non era l'opera di una minoranza, criticata dagli altri lavoratori. Sullo sciopero non perdo parole, perché più o meno tutti sapete che è un'arma valida, che è sempre stata usata dai proletari. Quello che forse molti non sanno è che spesso gli scioperi venivano repressi in maniera veramente brutale, e alla fine del libro, in un capitolo 10, che è un po' dove mi permetto delle divagazioni, riporto parecchi esempi di grossi scioperi avvenuti negli Stati Uniti, dove il potere è intervenuto non solo con la polizia, ma addirittura con l'esercito, fino a 20.000 militari, per domare uno sciopero dei ferrovieri in un certo posto, e naturalmente facendo delle carneficine eccetera. Un'altra forma alla quale ho accennato di opporsi al lavoro è sempre stato l'assenteismo. L'assenteismo, per esempio, negli anni 70 del secolo scorso, in tutta Europa, in Giappone e negli Stati Uniti no, ma in tutta Europa, e specialmente in Italia, aveva assunto delle dimensioni veramente preoccupanti, no? Guardate cosa diceva Agnelli, no? Il famoso patron della Fiat. Nel 1970 la Fiat ha perso 33 milioni di ore di lavoro per assenteismo, il che significa l'assenza giornaliera di 18.000 lavoratori, il 12% delle maestranze. Tutto ciò a fronte di solo 3,5 milioni di ore di sciopero istituzionale. Poi c'erano i furbi che escogitavano il sistema per poter assentarsi dal lavoro con tutti i carismi della legalità, nel senso che ottenevano dai dottori, dai medici, il documento che confermava che loro erano malati. E spesso naturalmente non erano malati del tutto, ma avevano usufruito, per esempio, di un libricino come quello pubblicato in Germania negli anni 70, che si chiamava Wege zu Wissen und Wohlstand, no? Vie verso il sapere e il benessere. Ed era un libretto che spiegava alla gente come ci si poteva far venire i sintomi di certe malattie, che poi, andando dal medico, lui constatava che la malattia veramente esisteva e ti prescriveva la settimana o le 2 o 3 settimane di permesso di startene tranquillo a casa. Siamo a sedere questi nuovi arrivati. C'era poi una moderna forma di opporsi al lavoro, che consisteva nello sfruttare la disoccupazione. Io ho un amico che, grazie ai soldi della disoccupazione e al tempo libero che questo gli permetteva, ha scritto un libro, e questo libro l'ha poi lanciato, l'ha fatto conoscere, e gli ha permesso di farsi una seconda esistenza come scrittore. In Francia c'erano, nei giovani degli anni 70, così, c'erano due atteggiamenti diversi per quanto riguarda le agenzie e gli uffici di collocamento, no? Da una parte c'era chi andava a distruggerle, a bruciarle, perché le ritenevano delle delle succursali, dei padroni, no? Degli uffici che fornivano all'industria manodopera a buon mercato. E in parte era vero questo, è vero ancora adesso. Però altri invece con uno spirito un po' più moderno, invece li decoravano questi uffici, perché erano quelli che grazie ai sussidi di disoccupazione gli permettevano di passare 6 mesi tranquilli, pagati e con la possibilità di fare il giro del mondo con lo zaino oppure di starsene pancia all'aria o di fare qualche altra attività, per esempio agitazione politica, senza doversi alzare il mattino per andare al lavoro. Volevo citarvi un piccolo testo per me molto definitivo, non so dove diavolo l'ho messo. Beh, forse lo trovo dopo. Un attimo, magari lo trovo perché mi piacerebbe leggerlo. Cioè, lo posso anche riassumere, un lavoratore francese che il mattino, prima delle 6, suona la sveglia, lui si alza assonnato, dice: cavolo, mi piacerebbe girarmi dall'altra parte, però devo proprio andare al lavoro. Allora va in bagno, si guarda nello specchio e dice: tu saresti un uomo libero? E lascia il punto di domanda. Lavoro rende liberi, no? Andiamo avanti. Un'altra forma nascosta di opposizione al lavoro è il furto, la rapina. Naturalmente molti, molti rapinatori, molti ladri agiscono in una logica completamente del tutto inerente al sistema. Rubano per fare soldi, per comprare macchine potenti, per dotarsi di un sacco di beni materiali. E questi non sono politicizzati. Di solito quando vengono presi non contestano, dicono mi è andata male e di solito sono poi anche dei bravi ergastolani o prigionieri che non creano casini. Invece adesso forse un po' meno purtroppo, ma anni fa esistevano dei ladri veramente politicizzati, e nel secolo scorso anche, che rubavano da una parte per sottrarre un pochino della ricchezza sociale ai padroni e d'altra parte invece anche un po' come sfida al sistema, perché c'è molta adrenalina nel fatto di andare in un posto a fare una rapina, non sai mai bene come funziona. E questo, per esempio, in Italia c'erano quelle che chiamavano le batterie, dei gruppi di gente affiatatissima che era cresciuta assieme, che conosceva il quartiere molto bene e che agiva con una grande omertà, ma omertà in senso positivo, nel senso che erano solidali. E poi naturalmente anche loro presto o tardi venivano acchiappati, no? Questa era gente che faceva casino anche in prigione, che sognava di evadere e gli amici rimasti fuori tentavano sempre di tutto per liberarli. Un altro tipo invece, sempre in quest'ottica, ma l'anarchico cosciente che fa il ladro per scelta e per opposizione al sistema che lo vuol costringere a prostituirsi nel lavoro. Di questo tipo c'è una biografia famosa, si chiamava Jacob, Marius Jacob, era un anarchico che poi è stato preso nel 1902, nel 1905 gli hanno fatto un processo e sentite come si difende lui è davanti ai giudici, cioè non, si difende attaccando. È un po' lungo, ma ve lo voglio leggere questo passaggio, perché ogni volta che lo leggo a me mi fa veramente piacere. Signori, ora sapete chi sono: un rivoltoso che vive del frutto dei suoi furti. Più ancora, Ho incendiato parecchi alberghi e difeso la mia libertà contro gli sgherri del potere. Ho messo a nudo tutta la mia esistenza di lotta e la sottopongo come un problema alle vostre intelligenze. Non riconoscendo a nessuno il diritto di giudicarmi, non invoco né perdono né indulgenza. Non imploro chi odio e disprezzo. Siete più forti, disponete di me come meglio ritenete. Voi chiamate un uomo ladro o bandito, applicate contro di lui i rigori della legge senza chiedervi se poteva fare altrimenti. Si è mai visto un redditiere farsi svaligiatore? Confesso di non conoscerne. Mentre io, che non sono né redditiere né possidente, non avendo che le mie braccia e il mio cervello per garantire la sopravvivenza, ho dovuto seguire un'altra strada, una delle tre vie che la società mi lasciava percorrere: il lavoro, l'elemosina o il furto. Il lavoro non mi ripugna, anzi mi piace. I muscoli e il cervello umani possiedono una grande mole di energia da spendere. Ma ciò che mi ripugna è di sudare sangue per un salario di miseria. La mendicità, dal canto suo, è avvilente, è la negazione di ogni dignità. Il furto è la restituzione, la ripresa in mano. Piuttosto che vedermi rinchiuso in una fabbrica simile a un carcere, piuttosto che mendicare ciò che mi spetterebbe per diritto, ho preferito ribaltarmi e lottare, fare la guerra ai ricchi, attaccando i loro averi. So bene che voi avreste preferito che mi sottomettessi alle vostre leggi, che operaio dal cervello fuso finissi a crepare all'angolo di una strada. Allora voi non mi chiamereste cinico bandito, ma onesto lavoratore. Mi avreste forse anche dato una medaglia per il merito sul lavoro. Grazie. Preferisco essere una persona cinica, cosciente dei propri diritti, che un automa, una cariatide. Da quando ho capito come vanno le cose, mi dedico al furto senza problemi, ed era molto bravo. Non obbedisco alla vostra pretesa morale che predica il rispetto della proprietà, quando non c'è peggiore ladro di un possidente. Ritenetevi fortunati che tale pregiudizio si sia radicato nella gente, perché è questo il vostro migliore gendarme. Conoscendo l'impotenza della legge, cioè della forza, ne avete fatto il vostro protettore più efficace. Ma state attenti, è solo questione di tempo e tutto ciò che viene costruito con la forza e il sotterfugio, la forza del sotterfugio possono demolirlo. La gente evolve, impara, prende coscienza. Non pensate che un giorno darà l'assalto alle vostre dimore per riprendersi le ricchezze che ha creato e che voi le avete sottratto? Questo è Marius Jacob, che tra parentesi poi ha preso l'ergastolo, è finito alla Cayenne, quel terribile carcere francese in un'isola spersa, e poi è stato graziato nel 50 e qualcosa. Comunque ancora, poi si è rifatto una vita ed è vissuto ancora 28 anni dopo la prigione. E se poi ha poi finito i suoi giorni sparandosi al cuore. Questo era ladro, ladro Marius Jacob. Dopo questo excursus sulla le forme di opposizione al lavoro, porto nel mio libro vari esempi di oziosi letterari inventati e anche di oziosi veramente vissuti. Fra gli oziosi letterari c'è il famoso caso di Oblomov, che è un romanzo di Goncharov, è stato tradotto in non so quante lingue, e descrive questo personaggio che aveva deciso di non più lavorare. Qualcuno di voi ha forse visto un film che girava in Italia anni fa, che si chiamava Alessandro, uomo felice. E questa è la storia di uno, è un'invenzione però, uno che decide di non più uscire dal letto. Si era costruito dei fili, degli aggeggi con i quali riusciva a portarsi a aprire il frigorifero e portarsi le salsicce e le cose senza dover uscire dal letto. Aveva ammaestrato il cane ad andare a fare la spesa e il cane capiva anche se il macellaio voleva rubare sul peso, si metteva ad abbaiare. E poi per quasi quasi viene poi è fregato da una donna della quale lui si innamora e lo vuol portare, lo convince a cambiare vita e lo vuol portare in chiesa a sposarsi. E e Alessandro arriva a metà del viale della chiesa, c'ha un lampo di illuminazione e scappa, se ne torna a letto a fare la sua vita di prima. E poi riporto anche delle teorie più serie, teorie e saggi anche sulla possibilità di creare società diverse. Fourier, forse il nome che qualcuno di voi conosce, Morris Bellamy aveva scritto un romanzo, cioè lui pone che una persona muore, ma poi è una morte finta, no? E si sveglia il secolo dopo è il 2000, l'anno 2000, dunque il libro è stato scritto alla fine dell'Ottocento, e si trova in un mondo completamente diverso. Allora l'interessante è che questa persona, che ha ancora in testa naturalmente i parametri, no? Di giudicare la società del secolo prima, pone delle domande agli esponenti della nuova società, completamente diversa: si lavora poco, c'è spazio per le arti e per la creatività. E il romanzo ha una finalità didattica, perché lui, con la mentalità antica, facendo delle domande, costringe praticamente gli abitanti di questa nuova società a spiegare come funziona e come loro hanno fatto a liberarsi dei vecchi parametri, delle vecchie costrizioni del lavaggio del cervello, no? E così uno che si legge il libro rifà dentro di sé tutti questi ragionamenti. Parlo brevemente delle proposte di Owen, di Kropotkin, di Bookin. Murray Bookin è uno scrittore veramente formidabile, che ha scritto per una società ecologica, mi sembra, e altri libri dove analizza com'era la vita nelle quelle che lui chiama le società, oddio, mi scappa il nome, che funzionavano su una base della reciprocità, del mutuo appoggio, del minimo indispensabile e di solitarietà, per far vedere che esistono proposte sia teoriche, queste sono teoriche, e poi in un altro capitolo invece propongo degli esempi pratici, di tentativi veramente realizzati. Molti duravano pochi, alcuni sono durati addirittura 20 anni, di messa in pratica di una vita basata sull'autonomia, sulla produzione diretta dei beni, del cibo che ci fa vivere. E questo lo faccio basandomi su un libro di Craik, Laboratori di Utopia si chiama. Ho visto che c'è qua sotto nella biblioteca questo libro. Parla dell'associazionismo negli Stati Uniti, più o meno dall'inizio dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale. E erano delle comunità, di solito degli amici che si trovavano, gente che uno pubblicava in un giornale che aveva l'idea di fondare una comunità, e altre persone si aggregavano, andavano. Naturalmente la grande differenza rispetto a oggi è che negli Stati Uniti dell'Ottocento erano praticamente vuoti, cioè si rubava terra agli indiani o si erano già massacrati, e dunque era facile per un gruppo di persone con pochi soldi comprare un grande territorio, anche in riva a fiumi, con foreste, con terreno arabile e facile, facile da lavorare. Per cui c'era una possibilità, la partenza per una comunità che voleva sottrarsi al modo normale di funzionamento della società, il punto di partenza era molto più facile che oggigiorno. Oggigiorno, insomma, ci sono persone che vanno in Toscana e si comprano delle fattorie diroccate, ma naturalmente bisogna avere già un capitale più consistente dall'inizio via. È un bel esempio anche di messa in pratica dell'autonomia, è successo in Spagna nel 1936, dopo il fallito colpo di Stato di Franco e il governo di unità popolare. Si era diffuso nel paese un grosso entusiasmo, specialmente in Catalogna, in Aragona, dove già dall'Ottocento erano attive molte cellule, molti gruppi anarchici che pronavano già questo desiderio di vivere diversamente. Per esempio, a Barcellona, solo per rendervi un'idea, Barcellona era una città di 1 milione. Per dirvi cosa significa l'entusiasmo che può nascere quando per un motivo contingente si dà la possibilità di liberarsi dalle pastoie mentali e anche sociali che ci instradano in una direzione che noi non vogliamo, no? Questa nuova situazione politica della Spagna ha liberato la mente della gente, ha reso possibile tentare di costruire nuovi modi di vivere assieme, di produrre e di godere della vita. E Barcellona, per esempio, una città di 1 milione di abitanti, nel giro di poche settimane l'ordine borghese era stato radicalmente sovvertito, le fabbriche furono autogestite. La produzione orientata ai bisogni, il denaro era praticamente fuori uso, la casa e i servizi primari erano gratuiti per tutta la popolazione nel giro di poche settimane. Invece nelle campagne di Aragona, invece era nato un grosso movimento di comunità agricole che si erano rese autonome, si erano organizzate per conto proprio, avevano espropriato i terreni ai grandi proprietari e organizzato la produzione su base collettiva. E qui avevano forse fatto un po' un passo troppo lungo, perché si è poi dimostrato a posteriori che i contadini abituati a lavorare una certa terra avrebbero preferito rimanere su quella terra e non magari venire spostati da un'altra parte. Comunque, per circa un anno, finché la reazione non è piombata addosso a questi e ha reso la vita difficile fino a farli fallire questi tentativi, per centinaia di migliaia di persone era stato reso possibile vivere in un'altra maniera. E questo aveva significato anche, non solo a livello intellettuale, un cambiamento, ma anche a livello, veramente a livello pratico. Per quanto riguarda l'alimentazione, per esempio, vi leggo le razioni quotidiane che in questa comunità di Cretas, la cui esperienza noi la conosciamo grazie a un libro di una coppia ticinese, Simoni, che la moglie era originaria di questa zona e poi qualche anno fa hanno deciso di andare sul posto, intervistare i sopravvissuti, ricercare negli archivi cos'era successo, hanno potuto ricostruire la storia di questo esperimento di autogestione a livello rurale. Questo villaggio, che adesso non ricordo più quanti abitanti aveva deciso la razione quotidiana di 600 grammi di patate a testa, 50 grammi di riso, 100 g di fagioli, 50 g di pasta, 1 litro di vino per i maggiori di 17 anni e mezzo litro per i minori. Pane, prima era libero, poi si è dovuto ridurre a mezzo chilo e poi a 250 g a testa al giorno. Legumi, conserve, zucchero, uova, secondo la disponibilità. D'inverno, inoltre, mezzo chilo di carne a testa al giorno, oltre un prosciutto e salsicce. Per famiglia per tutto il periodo invernale. E a detta di tutti gli studiosi, dopo, quando questo esperimento è fallito, la condizione della gente è peggiorata a tutti i livelli. Altri esempi per esempio, di autogestione si sono avuti in Francia, in Argentina, forse questo è presente a tanti di voi. Dopo la crisi economica e politica dell'inizio del terzo millennio in Argentina, molti capitalisti erano fuggiti e questo ha permesso agli operai di occupare le fabbriche e attualmente ancora in Argentina c'è circa 200 fabbriche che sono autogestite, funzionano per decisione degli operai e producono quello che gli operai vogliono. Un esempio bellissimo è stato invece in Francia il caso della LIP, una fabbrica di orologi di Besançon che a cavallo dal 1973-74 ha dato vita a un'agitazione operaia che ha attirato l'interesse non solo della Francia, ma anche di paesi attorno. E è chiaro che sotto sotto lo scopo di questi operai della LIP era la difesa del posto di lavoro, dunque mi si potrebbe dire, beh, questo non va nella direzione che tu auspichi, no? Però quello che è stato interessante in questa lotta erano le forme adottate dagli operai che se ne fregavano della legalità, se ne fregavano del tatticismo sindacale. Hanno per esempio cominciato occupando la fabbrica, hanno sequestrato la direzione. Hanno saccheggiato gli uffici, naturalmente non solo per vandalismo, ma per ricercare documenti e li hanno trovati che provavano la decisione dei padroni di smantellare poco a poco tutta la fabbrica, che invece loro hanno dimostrato che poteva funzionare e l'hanno fatta funzionare in autogestione, naturalmente con dei ritmi di lavoro completamente diversi, organizzando delle riunioni, la fabbrica era aperta alla gente di fuori e si pagavano, lavoravano, producevano e si pagavano senza bisogno di padroni. E per dirvi cosa questa attività, questa agitazione avesse poi provocato anche nella testa degli operai, vi leggo un piccolo testo che era stato pubblicato in un bollettino che loro regolarmente pubblicavano. Dicono i lavoratori della LIP: abbiamo trovato conferma nella realtà di ciò che in forma utopica abbiamo sempre saputo. Per un proletario non c'è nulla di più appagante che smettere di lavorare. Malgrado tutte le manovre svianti messe in atto da sindacati, Stato e capitale, nulla più riuscirà a farcelo dimenticare. E la LIP, non è che le cose andavano poi, erano andate così pacificamente, ci sono stati vari tentativi della polizia di farli sloggiare. Ci sono state pressioni, ci sono state denunce, ci sono stati blocchi da parte delle banche, del capitale, dei conti su quale loro depositavano i soldi per potersi pagare, eccetera, eccetera. D'altra parte però c'è stata un'enorme solidarietà e pensate che Quando gli operai nel settembre del 73 hanno organizzato una manifestazione, forse qualcuno ha seguito 2 o 3 anni fa il bellissimo caso delle officine di Bellinzona, anche lì un movimento che senza che nessuno l'avesse previsto, aveva potuto nel nostro piccolo Canton Ticino coinvolgere la popolazione, creare una grande solidarietà, tanto che una manifestazione a Bellinzona aveva raccolto qualcosa come 10.000 persone. Ebbene, per questa manifestazione di sostegno organizzata a Besançon, gli operai della LIP avevano preparato 2 tonnellate di gruyère, 1.600 kg di prosciutto, 1.000 salsicce, 1.000 kg di salsicce, 150.000 bottiglie di vino minerale, 150.000 frutti. No? E sapete quante persone sono arrivate un giorno che pioveva a dirotto? 100.000 persone. 100.000 persone si sono recate a Besançon a sostenere questa lotta che aveva veramente, era stato un esempio bellissimo per tanti altri. Un altro caso di autogestione si è verificato in Inghilterra A un certo momento il governo Thatcher ha deciso di disfarsi delle miniere di carbone e pagava, offriva agli operai una buona uscita per evitare che questi cominciassero a fare dei casini, occupassero le miniere, eccetera, eccetera. E in una di queste tante miniere la gente alla fine ha accettato questa proposta finanziaria del governo, però alcuni operai hanno avuto l'idea di proporre ai loro colleghi di acquistare, di usare questi soldi per acquistare la miniera che il governo svendeva di solito a dei capitalisti privati e l'hanno fatto, sono riusciti legalmente a poter comprare questa miniera, si sono organizzati autonomamente. Si sono dati ritmi di lavoro e condizioni di lavoro naturalmente molto migliori di quelle che poi vigevano nelle altre miniere che erano finite in mano a dei padroni privati. Anche in Serbia una grossa ditta farmaceutica in crisi, i padroni scappano e gli operai la occupano e si mettono a produrre in proprio, no? Lo slogan che accomuna tutti questi tentativi è: una fabbrica può funzionare senza padroni, non può funzionare senza operai. Se avete delle domande o delle proposte, interrompetemi, perché pian piano arrivo poi alla conclusione. Nel capitolo 7 affronto un tema che da qualche anno è abbastanza di moda, le proposte o riformistiche o avanzate o radicali per uscire dalla crisi e una frase che riassume un po' tutte queste teorie o queste proposte è quella che bisogna allontanarsi dall'economia, no? Fare sì che la società non sia più schiava, sottomessa al diktat dell'economia, ma riportare l'economia a un mero mezzo della società per organizzare la produzione e la messa a disposizione dei membri della collettività di quello che si ha bisogno per vivere. E una parola d'ordine è la decrescita, no? Mentre tutti predicano la crescita, a me mi fa quasi piangere quando sento i sindacalisti che rivendicano per esempio l'aumento salariale, no? E dicendo ai padroni: guardate che se ci date più soldi, noi poi spendiamo di più, e spendendo di più facciamo funzionare l'economia, come se non stessimo già per essere sommersi nella massa di prodotti inutili, nocivi e avvilenti in parte. La decrescita, l'apostolo della decrescita è Serge Latouche. Ci sono proposte, secondo me, riformistiche che non stanno in piedi, che della Tobin Tax o il salario minimo garantito o il salario di cittadinanza, no? Perché secondo me funzionano sempre all'interno, sono dipendenti dal sistema vigente. Si vuole per esempio garantire un salario di cittadinanza alla gente tassando le transazioni finanziarie. Ora, se queste transazioni finanziarie sono qualcosa di iniquo, di sbagliato e di deprecabile, non vedo perché si dovrebbe proprio usare, no, questa cosa per sostenere la possibilità di dare a tutti un minimo salariale che li faccia vivere. E inoltre, se questo sistema dovesse veramente funzionare e rendere poco attraente la speculazione borsistica e le transazioni commerciali, ci si taglierebbe il ramo sul quale si sta seduti, no? Secondo me la via d'uscita è sì la decrescita, ma il ritorno ad una povertà, come dicevo all'inizio, quando facevo la distinzione tra povertà e miseria, bisogna ritornare a una povertà decente, una povertà sopportabile, vivibile. Sì? La condivisione, sono Oppure parole. magari conduce a condividere quel poco che abbiamo con chi ha come noi. Sì, però al momento ora abbiamo tanto, non abbiamo poco, ma abbiamo cose materiali, mentre una società basata su una ricchezza non materiale, la ricchezza che sta nel sapere costruirsi, per esempio, uno strumento, nell'usare le proprie mani, Nella socialità, nella perché un tempo, socialità. perché un tempo, Com'è? Nello scambio. Lo scambio. Cioè, le parole Tu pensi d'ordine sia un sono la convivialità, no? I valori vernacolari cari a Illich e agli Illichiani, il mutuo appoggio, eccetera, eccetera. E soprattutto il dominio dell'ambiente, perché se noi pensiamo, la maggior parte di noi, no? Non ha nessun controllo sull'ambiente, su quello che li fa vivere. Siamo proprio dipendenti di questo salario che ci viene dato e dobbiamo sperare che poi nei negozi ci sia sempre quello che possiamo andare a comprare, no? Ma chi ancora si produce da sé? Nel nostro mondo, perché come dicevo prima, 4 miliardi, la maggioranza della popolazione mondiale ancora oggi produce lei direttamente quello di cui ha bisogno. Purtroppo stiamo saltando addosso anche questa gente, li riduciamo sempre di più la possibilità di poter vivere da poveri dignitosi, no? E mentre come dicevo all'inizio, l'economia li vede da un punto di vista della mancanza, no? Per l'economia normale, questa gente che vive con $2 al giorno, a questa gente manca qualcosa, manca salario, bisogna fare in modo di portare lavoro, no? Perché possono avere un salario per spendere, eccetera, eccetera. Invece, guardati da un altro punto di vista, questa gente ha una ricchezza enorme, la ricchezza di decidere fino a un buon punto del proprio destino, a parte le calamità naturali alle quali sono esposti, no? Loro, se li si lasciano tranquilli, se li si lascia la terra, se li si dà al limite, dagli macchinari soft, no? Un po' più efficienti di quelli che hanno, loro possiedono questa ricchezza immateriale, la ricchezza di vivere socialmente, la ricchezza di dominare il proprio ambiente, perché un contadino che si produce il proprio cibo, controlla l'ambiente, vive con le precipitazioni, col clima, con le stagioni, si costruisce in parte gli strumenti che usa da sé. Noi siamo completamente in balia di forze che non, invece che non conosciamo, no? E da questo punto di vista, nell'ultimo capitolo dove faccio delle digressioni, mi permetto di fare delle riflessioni su quello che significa il progresso. Dal mio punto di vista dico che siamo più ignoranti noi, popolo civilizzato, di uno indiano dell'Amazzonia o di un africano che vive ancora del frutto diretto del suo lavoro, perché appunto, per ripetermi, lui controlla, fino a un certo punto controlla la propria vita e conosce gli strumenti che usa. Noi invece siamo proprio abbandonati. Mi ricordo alcuni anni fa, per un albero caduto sul Lucomagno, non so dove, mezza Italia è rimasta al buio, no? Allora c'è il bel grande congelatore che tutta la roba che c'è dentro marcisce, tu non puoi fare niente per un fottuto albero che doveva cadere su una linea dell'alta tensione. Allora cosa mi serve sapere come funziona un aeroplano, no? Se poi appunto manca la corrente e sono a terra, non posso neanche più farmi un caffè o un tè per scaldarmi e per cercare di non panicare troppo. Scusi, ma per la salute e la sanità dove scoperto scientifico? Scusa, no, devi parlare forte perché io sono un po' sordo. La salute e la sanità. Più dottori ci sono, più gente malata c'è, dunque anche nel nostro sistema qualcosa non funziona. Però credete pure se lo Stato finanzia, credete pure che ai malati, se lo Stato gli dà la possibilità, cioè dove prevale la povertà, la sanità sarebbe solo dei ricchi. Ciao. Il problema non è prolungare la vita, no? Oggigiorno ci sono delle persone, degli individui che nascono malati e campano 80 anni e noi purtroppo diamo valore alla quantità, ai giorni che cumuliamo e agli anni che possiamo vivere invece di dar valore alla qualità. Io non penso che un paese dove l'aspettativa di vita è solo di 40 anni sia proprio solo per questo un paese più disgraziato del nostro, nel quale moltissimi arrivano a 80 anni, ma arrivano male, veramente male, arrivano grazie ai medicamenti, grazie a stampelle che vengono da tutte le parti. E poi non sarebbe... Non è una contraddizione, la mia proposta di tornare a una povertà dignitosa non significa assolutamente che non si possa sviluppare un sistema sanitario valido. Prendiamo Cuba per esempio, non voglio necessariamente difendere Cuba qui in un ambiente dove ci sono degli anarchici, però Cuba confrontato con tutti gli altri paesi del Sud America dimostra che pur vivendo tutti più o meno con pochi mezzi, c'hanno la salute assicurata e c'hanno l'educazione assicurata. Non c'è contraddizione nelle due cose. Adesso, io smetto, lascio un po' intervenire a voi. Comunque il libro contiene cose molto più interessanti di quelle che ho detto, o dette in maniera più spassosa, più godibile alla lettura, perché un conto è scrivere, che poi rifare, correggere, è un conto è parlare e improvvisare.